Capitolo 110. I figli di Pelope. Grata a Era che aveva facilitato le sue nozze con Pelope, Ippodamia ordinò a 16 matrone, una per ogni città dell'Elide, di aiutarla a organizzare i giochi di Era. Ogni 4 anni da allora le 16 matrone e le matrone che a loro succedettero hanno intessuto un manto per Era e celebrato i giochi. Tali giochi consistono in una gara di corsa tra vergini di diverse età, con un handicap stabilito a seconda degli anni. Le più giovani partono in testa. Tutte le concorrenti indossano tuniche corte fino al ginocchio, hanno il seno destro scoperto e i capelli sciolti sulle spalle. Cloride, l'unica figlia superstite di Niobe, fu la prima vincitrice della gara. Il percorso copre i 5 sesti del circuito di Olimpia. Il premio è un ramo di olivo e una parte della vacca sacrificata a Era. La vincitrice ha inoltre il diritto di innalzare una statua a se stessa. Le 16 matrone un tempo fungevano da mediatrici nelle contese tra gli abitanti di Pisa e gli Elei. Ora istruiscono anche 2 gruppi di danzatrici, l'uno in onore di Ippodamia, l'altro in onore di Fiscoa di Elide. Fiscoa ebbe da Dioniso un figlio, Narceo, famoso guerriero che fondò il santuario di Atena Narcea e fu il primo Eleo a onorare Dioniso. Talune delle 16 città primitive non esistono più e le 16 matrone vengono ora elette tra le 8 tribù dell'Elide, un paio per ciascuna. In qualità di arbitri si purificano, prima dell'inizio dei giochi, col sangue di un maiale e con acqua attinta alla fonte Pieria, che il pellegrino oltrepassa percorrendo la via tra Olimpia ed Elide. Si dice che da Pelope e Ippodamia siano nati i seguenti figli: Piteo di Trezene, Atreo e Tieste, Alcato, ma non l'Alcato ucciso da Enomao, l'Argonauta Ippalco, Ippalmo o Ippalcimo, Copreo l'Araldo, Scirone il Bandito, Epidauro l'Argivo, a volte detto figlio di Apollo, Plistene, Diante, Cibosuro, Ippaso, Cleonte, Argeo, Elino, Astidamia, che taluni dicono madre di Anfitrione, li si dice la cui figlia Ippotoa fu portata da Posidone nelle isole Echinadi e colà diede alla luce Tafio. Euridice, che taluni dicono madre di Alcmena, Nicippa, Antibia e infine Archippe, madre di Euristeo e di Alcione. Gli abitanti di Megara, per cancellare il ricordo di come Minosse conquistò la loro città e per far credere che a re Niso era succeduto in modo pacifico il genero Megareo e a costui il genero Alcato, figlio di Pelope, dicono che Megareo ebbe 2 figli e il maggiore di essi, Timalco, fu ucciso ad Afidna quando i Dioscuri invasero l'Attica, mentre il minore, Evippo, fu divorato dal leone del Citerone. Megareo allora promise la mano di sua figlia Evacme e il trono di Megara a chiunque vendicasse la morte di Evippo. Alcato uccise il leone e, divenuto re della città, innalzò un tempio ad Apollo cacciatore e ad Artemide cacciatrice. Vero è invece che Alcato giunse dall'Elide a Megara subito dopo la morte di Niso e il saccheggio della città, che Megareo non regnò mai in Megara e che Alcato sacrificò ad Apollo e a Posidone come primi fondatori e poi riedificò di bel nuovo le mura della città. Il tracciato delle mura antiche, infatti, era stato cancellato dai cretesi. Alcato fu padre di Iscepoli, di Callipoli, di Ifinoe, che morì vergine sulla cui tomba posta tra la sala del concilio e il santuario di Alcato le spose megaresi versano libagioni, così come le spose di Delo offrono le loro chiome a Ecaerga e a Opide, di Automedusa, che generò Iolauda Ificle, e di Peribea, che sposò Telamone e ne ebbe un figlio, Aiace, che succedette ad Alcato sul trono di Megara. Il figlio maggiore di Alcato, Iscepoli, perì nel corso di una caccia sul Caliclone, e Callipoli, il primo tra i megaresi che ne ebbe la triste notizia, corse sull'Acropoli dove Alcato stava bruciando vittime in sacrificio ad Apollo e scostò le fascine dall'altare in segno di lutto. Ignaro dell'accaduto, Alcato si infuriò al vedere quell'empio gesto e uccise Callipoli colpendolo con una fascina. Iscepoli ed Evippo sono sepolti nel Pritaneo. Megareo, sul lato destro della scalinata che porta alla seconda Acropoli di Megara, il tempio innalzato ad Alcato è ora il pubblico archivio e quello di Timalco la sala del concilio. Anche Crisippo fu creduto figlio di Pelope e Ippodamia. ma era in verità un bastardo che Pelope generò dalla ninfa Astioche, una Danaide. Ora accadde che Laio, esiliato da Tebe, fu ospitalmente accolto da Pelope a Pisa, e colà si accese d'amore per Crisippo e gli insegnò l'arte di guidare il cocchio. Non appena il bando d'esilio fu annullato, Laio portò via il ragazzo e lo tenne a Tebe come suo amante. Taluni dicono che Crisippo si uccise per la vergogna, secondo altri invece Ipodamia, per impedire che Pelope nominasse Crisippo suo successore, diseredando i propri figli legittimi, si recò a Tebe e cercò di convincere Atreo e Tieste a uccidere il ragazzo gettandolo in un pozzo. Ambedue rifiutarono di assassinare l'ospite del padre. Allora Ippodamia, a notte fonda, si introdusse nella camera di Laio e, trovatolo immerso nel sonno, staccò la spada dalla parete e trafisse il petto di Crisippo che dormiva accanto a lui. Laio fu tosto incolpato di assassinio, ma Crisippo, che aveva visto Ippodamia fuggire dalla stanza, l'accusò mentre esalava l'ultimo respiro. Frattanto Pelope stava marciando su Tebe per riprendersi Crisippo, ma saputo che Laio era già stato gettato in carcere da Atreo e da Tieste, nobilmente gli perdonò e ammise che soltanto un irresistibile amore poteva averlo indotto a infrangere le leggi dell'ospitalità. Taluni dicono che Laio, e non Tamiri o Minosse, fu il primo pederasta. Ecco perché i tebani, lungi dal condannare tale pratica, mantengono una compagnia detta la Brigata Sacra, interamente composta da ragazzi e dai loro amanti. Ippodamia fuggì nell'Argolide, dove poi si uccise, ma in seguito, secondo la predizione dell'oracolo, le sue ossa furono riportate a Olimpia e una volta all'anno le donne sfilano dinanzi alla sua tomba e le offrono sacrifici. A una delle curve dell'ippodromo si erge la statua bronzea di Ippodamia, che regge nella mano il nastro con il quale decorò Pelope dopo la sua vittoria. I giochi in onore di Era e Rei si svolgevano il giorno precedente ai giochi olimpici, consistevano in una corsa a piedi riservata alle fanciulle che in origine si contendevano la carica di grande sacerdotessa di Era, e la vincitrice, che reggeva il ramo di olivo come simbolo di pace e di fertilità, si identificava con la dea mangiando le carni della vacca sacra. Le 16 matrone probabilmente officiavano a turno come assistenti della grande sacerdotessa durante le 16 stagioni della quadriennale Olimpiade. Ogni ruota del carro regale rappresentava l'anno solare e aveva 4 raggi come la svastica. Narceo deriva senza dubbio da Atena Narcea, colei che paralizza una dea della morte. Le matrone che organizzavano i giochi Erei, e un tempo tali giochi implicavano sacrifici umani, si propiziavano il favore della dea con sangue di maiale e poi si purificavano in acqua corrente. I molti figli di Ippodamia attestano la forza della confederazione presieduta dalla dinastia dei Pelopidi. Tutti i loro nomi sono associati col Peloponneso o con l'Istmo. La leggenda di Alcato, che uccide il figlio Callipoli sull'altare di Apollo, è stata probabilmente tratta da una raffigurazione di Alcato nell'atto di bruciare suo figlio sul rogo, offrendolo come vittima al primo fondatore, il dio della città, Melicerta o Moloch, prima di accingersi a ricostruire Megara. Un re di Moab fece la stessa cosa. Inoltre Alcato, come Sansone e Davide, aveva ucciso un leone in un combattimento rituale. La mitologia corinzia ha strette analogie con la mitologia palestinese. Il mito di Crisippo ci è giunto soltanto nella versione più corrotta. Che egli fosse un bel ragazzo di Pisa esperto nell'arte di guidare il cocchio, rapito come Ganimede o come Pelope stesso, benché non salisse sino all'Olimpo, e ucciso infine da Ippodamia, ci permette di identificarlo con uno dei tanti sostituti regali che morivano travolti dal carro. Ma il suo mito divenne sempre più confuso perché si volle vedere in esso una giustificazione della pederastia tebana e della rivalità che si manifestava tra Tebe e Pisa nel corso dei giochi Nemei. Ippodamia, domatrice di cavalli, era un appellativo della dea Luna. A Figalia, una statua di tale dea, con la testa di giumenta, regge nella mano il pesce porco sacro ai Pelopidi. 4 dei figli e delle figlie di Pelope hanno nomi ippici.